Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. La scuola si è fermata. 7 manifestazioni contemporanee nel paese. Primo sciopero generale unitario della scuola. È un no corale al progetto di riforma presentato dal governo Renzi. Abbiamo visto la repressione firmata Renzi e Zanini. Il nostro disegno di legge prevede un'assunzione non falsa ma vera. Vogliamo una scuola che integri e potenzi quelle competenze che oggi sono irrinunciabili. Il disegno di legge va cambiato profondamente, non è che basta introdurre qualche parola nella premessa per pensare che ne cambi il senso. Eliminare il senso di meritocrazia in Italia, dando pieni poteri al preside. Qua si parla di finanziamenti alla scuola privata e di scuole di prima classe e di seconda classe. Però non possiamo pensare che ci sia un tempo in cui i sindacati bloccano la riforma della scuola. Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, buongiorno. Ecco, buongiorno. Senta, dopo l'incontro di Palazzo Chigi di ieri, lei salva qualcosa? Cioè è andato, c'è qualcosa di positivo in quell'incontro? Intanto è sempre positivo confrontarsi, dialogare e tentare insieme di trovare soluzioni. Ma il sottosegretario Faraone però oggi dice che voi avete perso il lume della ragione, che i sindacati hanno avuto gli scatti di anzianità e il potere del preside è stato ridotto. Non ascoltereste a prescindere, questo dichiara oggi a Repubblica. Fa dichiarazioni onestamente senza senso, mi spiace usare questi termini, non mi sono propri, ma è esattamente così. Io credo che l'incontro abbia fatto rilevare alcune questioni davvero nodali che noi chiediamo siano cambiate nella riforma, e lo chiediamo perché la buona scuola innanzitutto la vuole il paese, e dentro esatto. Il paese la vogliono soprattutto quelli che lavorano nella scuola, le famiglie e gli studenti e i professori. Come no? Guardi, la cosa davvero importante che è successa nella nostra giornata di sciopero, che ha visto un'adesione straordinaria dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, è stato che alle manifestazioni fossero con noi studenti e famiglie. Proprio questo sottolinea il fatto di come alcune questioni che noi poniamo non sono soltanto per chi lavora nella scuola, sono innanzitutto per il paese. Dottoressa Furlan, ma se il governo non dovesse ascoltare le vostre richieste ulteriori, si può arrivare al blocco degli scrutini come è stato adombrato? Guardi, è una cosa che non mi piace assolutamente, il blocco degli scrutini. Ma c'è la possibilità. Avrebbe comunque dei disagi, creerebbe dei disagi a famiglie e ragazzi. Certo. Quindi io spero proprio che prima di allora abbiamo tutto il tempo, si trovino le soluzioni. Ecco, mi dice 3 cose che si devono fare per non fare il blocco degli scrutini? Certamente, innanzitutto va benissimo le 100.000 assunzioni nella scuola, e cioè 100.000 precari che diventano lavoratori e lavoratrici con dignità e sicurezza, però primo. Ci sono altri 80.000 precari. Noi abbiamo chiesto un piano pluriennale delle assunzioni, 80.000 che regolarmente da anni lavorano nella scuola. Facciamo un bel piano che crei davvero le condizioni allora per togliere la precarietà dai 100.000 in poi. Facciamo il piano. Primo punto, secondo punto, la questione della figura del preside, del dirigente scolastico. Quello è già stata, la mi scuola... sembra, elaborata, no? Allora, la rispetto scuola si basa sulla collegialità. Sì. Beh, una cosa che è stata rimediata, addirittura il preside da solo faceva il piano formativo. Non è più vero. Questo è stato modificato al collegio dei docenti e al collegio d'istituto. Bene. C'è però la questione della valutazione. Cioè i soldi, chi dà i soldi ai professori? Questo sostanzialmente. Esattamente. Io posto 2 questioni. La prima, questi milioni devono essere dati in modo paritario in tutte le scuole, oppure premiamo le scuole di frontiera, quelle che hanno più disagio, più difficoltà? Io credo che debbano essere premiate le scuole di frontiera, quelle dei sobborghi urbani. Sì. Non credo si debba premiare allo stesso modo un bel liceo classico. D'accordo, magari ai Pavioli rispetto alla periferia. Lei dice scegliamo. Secondo, la valutazione. Sì. I genitori e i ragazzi, sì, è giusto che valutino il servizio, sì, il servizio che offre la singola scuola, ma la valutazione delle capacità didattiche di un insegnante deve fare chi ha competenze rispetto a questo. Vabbè, il preside ha competenze, essendo preside. Il preside ha competenze. Certo. Siccome vorremmo qualche criterio oggettivo, sì, con il preside noi chiediamo che ci sia qualcuno del collegio dei docenti e anche qualcuno di terzo rispetto. Però non è necessaria, non interno, è necessaria la, un ispettore ministeriale. D'accordo. Oppure però la mediazione una delle tante del sindacato non è pubbliche di valutazione. Sì, però dicevo, scusi se l'ho interrotta, dottoressa Furna, però non è necessario che ci sia la mediazione del sindacato in questa collegialità, cioè non è che è per forza. Certo, quello. Che non è necessaria la mediazione del sindacato, ma insieme condividere i criteri è come se necessario. Certo. Guardi, la scuola è 7 anni che non ha contratto, che i nostri docenti e chi lavora, anche gli altri ovviamente nella scuola, non hanno un euro di maggiorazione contrattuale. Il disegno di legge dice con chiarezza che queste risorse sono comunque salario. Il salario si contratta almeno nei criteri. Mm. Possiamo dare qualche criterio oggettivo per cui un docente ha questo riconoscimento economico? Quindi lei dice no? Trattiamo il salario e a queste condizioni il ragionamento sulla buona scuola può cambiare. Le vorrei fare un'ultima domanda. Renzi ieri ha twittato che nei prossimi giorni sulla buona scuola su Twitter farà un Matteo risponde. Ecco, lei che cosa gli chiederà precisamente queste cose che mi ha detto? Beh, guardi, le nostre richieste le abbiamo poste ieri al tavolo di confronto e per me il tavolo di confronto è la sede giusta. Sì. Ieri è successa una cosa importante, che abbiamo stabilito che si riapre il confronto tra la ministra Giannini e le nostre categorie, sì, che nel percorso della legge, nella commissione al Senato, ci possono ancora essere cambiamenti e che dopo quell'audizione ci ritroviamo tutti a Palazzo Chigi. Quindi diciamo un il passo avanti. Si è riaperto. Un passo avanti. 9:17:59 Alessandra da Parma ci scrive: se i sindacati sono contro la riforma della scuola significa che è una buona riforma. Naturalmente esagera e cede perché nello sciopero c'erano le famiglie, però i sindacati hanno perso presa, no Mario? Sì, allora non sono d'accordo con la frase lapidaria, certo, però c'è una verità, e cioè che la rappresentanza sindacale, ho sentito anche le cose che ha detto la Furlan e non mi hanno convinto, non sta facendo un buon lavoro per gli insegnanti e per gli studenti. Vi faccio un esempio: quando la Furlan parla a un certo punto della ripartizione del denaro e parla e dice ma non bisogna darlo a una scuola, a un liceo che sta in centro e così vabbè, via, fa una distinzione di classe, esatto, diciamo. Fa una cosa classista, sì, che sì, non sentivo da tempo e posso assicurare, la Furlan pure lo sa, che non è la questione di stare in centro o meno che fa la differenza tra una scuola, certo, ricca e povera. Certo. Io conosco scuole poverissime che non hanno niente e stanno nel pieno centro storico di Roma. Di che cosa stiamo parlando? Tu Pietrangelo? Io ho un'idea che né i sindacati né tantomeno questo ceto politico sono in grado di affrontare questo problema enorme qual è quello della scuola, che da sempre è precipitata nell'indifferenza voluta, sì, cercata, conclamata della politica, che ha sempre considerato un fastidio occuparsi della scuola. Un serbatoio di voti. Un serbatoio, certo, di voti, un serbatoio di consensi. Bravo, Pietrangelo. Ed è l'assoluta vergogna che poi bisognerebbe imputare anche a chi in 20 anni di berlusconismo doveva sentire la responsabilità di occuparsi della scuola, perché lì si forma il futuro di questa Italia. C'è solo un problema, secondo me, su cui bisogna vigilare, e non possono essere né il ceto politico né i sindacati, ma la coscienza di tutti, ed è quello di evitare che la scuola precipiti nello stesso baratro in cui è caduta la sanità. È ovvio che è importantissima la scuola pubblica e soltanto la scuola pubblica, e così come la sanità e soltanto la sanità pubblica, ma così come quella è stata massacrata mettendo alla guida degli ospedali dei manager e non dei medici, allo stesso modo sta succedendo nelle scuole, dove sono state trasformate in aziende, e bisogna ricordare che i presidi, i poveri presidi, sono costretti a promuovere comunque gli alunni perché su di loro pesa sempre l'unica spada di Damocle, la chiusura delle scuole. Considerate soltanto aziende e non mai luoghi di formazione del futuro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Nei giorni scorsi la Consob ha denunciato il rischio di presenza di una bolla speculativa in borsa. Alla Consob però si sono viste anche le conseguenze della vittoria alla Corte di Giustizia Europea del contenzioso sullo swap Fiat, il cosiddetto caso Grande Stevens. Ecco, avvocato Michele Briamonte, lei ha vinto di fronte alla Corte Europea sul caso Grande Stevens. Quali sono le conseguenze segnalate dalla Consob in seguito alla sua vittoria? Grazie direttore, innanzitutto mi preme segnalarle e dirle, direi ai suoi radioascoltatori, che sono molto numerosi, che la vittoria è stata sicuramente una vittoria di gruppo, perché l'avvocato Grande Stevens, il sottoscritto, che è il suo allievo, e il professor Coppi e il professor Irti, con grande capacità hanno portato in gruppo la questione alla Corte di Strasburgo. Devo dirle che le conseguenze secondo me saranno molto significative. Quali? Principalmente quelle che l'autorità del paese Italia, a prescindere se sia la Consob o la Procura della Repubblica o altre autorità, debbono decidere, dovranno coordinarsi molto meglio di come finora non è stato mai fatto, e cioè in particolare dovranno decidere chi è tenuto a sanzionare un comportamento eventualmente asseritamente lesivo delle norme che sono presidiate dalla loro competenza, e non potranno, come attualmente capita, agire tutti insieme in disordine, uno indistintamente rispetto all'altro. E quindi bisognerà marciare le priorità, decidere le priorità tra la Consob, l'autorità penale, le altre autorità amministrative. Ma nel frattempo cosa capita? Nel frattempo tutto è necessario rivedere radicalmente, siccome le norme consentivano a tutte queste autorità di andare tutte quante in parallelo, e siccome la Corte di Strasburgo ha detto che ciò viola i diritti umani, che non si può. Non si può più fare. E allora la Consob cosa non può fare più? La Consob non può fare, o meglio, se la Consob fa un procedimento sanzionatorio nei confronti di un soggetto, per esempio per aggiotaggio o per insider trading, essa deve sapere che al giudice penale, al pubblico ministero, sarà precluso, se una volta che la sanzione sarà stata erogata, accertare quel fatto. E quindi bisogna modificare le regole? Assolutamente. Prima di prendere altre decisioni? Altrimenti tutte le altre decisioni nel medio tempo riprese saranno soggette alla medesima vaglio di legittimità sulla conformità a diritti umani, che grazie a Dio si applicano anche ai cittadini italiani, nei confronti delle autorità, ecco, che li sanzionano. Ecco, avvocato Briamonte, anche Berlusconi è ricorso alla Corte Europea per la sentenza sui diritti media. Se c'è una relazione tra i due procedimenti? Direi che la relazione più evidente, signor direttore, è che il professor Coppi, che era nel nostro collegio difensivo e anche nel collegio difensivo del Cavalier Berlusconi, e conseguentemente conosce molto bene funditus la materia. Io credo che il più grande collegamento stia nel fatto che bisogna accertare, essendo il Cavalier Berlusconi appunto un cittadino italiano a cui si applica la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che la Corte di Strasburgo vigila sia rispettata, certo. Se anche nei suoi confronti, che è un altro illustre cittadino come è l'avvocato Grande Stevens e come fu nel caso che abbiamo rappresentato, sia stato seguito il rispetto del principio per cui, ecco, la sanzione che gli è stata inflitta non fosse una ripetizione di un'altra sanzione. Quindi un ne bis in idem, ecco, anche sotto profilo? Anche sul profilo della sua posizione di persona di riferimento di un gruppo quotato, che ha ricevuto una sanzione, e che tale sanzione, oltre a una sanzione anche fiscale, ha già in qualche modo pagato ed espiato per i medesimi fatti, avvocato, per cui è stato ritenuto colpevole. Avvocato Briamonte, un'ultima domanda. Quindi il caso Berlusconi in Europa potrebbe risolversi come il caso Grande Stevens, che lei ha gestito e vinto insieme ai colleghi che ha citato? Sì. Sì, direi di sì, caro direttore, nel senso che sicuramente la Corte ha dimostrato una capacità tecnica di non farsi influenzare sotto nessun profilo da altri ragionamenti che le sono estranei, e questo, devo dirle, direttore, mi fa piacere che noi, quando iniziamo nel 2009 il lungo percorso, mi scusi questa piccola chiosa, a Strasburgo, il nostro ricorso era rubricato numero 4. Del 2009. Oggi, come vede, i ricorsi piovono e le decisioni vengono prese. Bene. Anche. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Cari amici, oggi quasi tutti hanno bisogno di un prestito, piccolo o grande che sia. No, la Feed of Life è una società finanziaria che ha prestato soldi a cani e porci, faceva finanziamenti a tutti, la gente approfittava perché avevano un ottimo tag. Ricevere un prestito fino a 80.000 euro ad un tasso di interesse bassissimo. La gente che si prendeva i soldi era gente poveraccia, senza garanzie. C'è gente che c'ha da dare 48 rate che non pagherà mai. Con la pensione che avevo non mi era possibile far fronte con il mio, dovevo per forza chiedere. Poi a un certo punto non ho più pagato le rate che dovevo pagare perché non ce la facevo più. Prendevo da una parte per poter pagare da un'altra. Faceva un debito per pagare un altro debito. Sì. E alla fine non è riuscito a pagare nessuno. No. Io la cercavo con una certa urgenza, perché qui ci sono 1.992 euro di cui il finanziamento gli hanno acceso nel 2005 e che lei purtroppo non ha mai finito di pagare. Io sono qui per quel contratto che lei ha sottoscritto, che poi purtroppo, ahimè, non ha pagato. Come mai non è riuscito più a farne fronte? Perché non ci sono. Questi qui della Feed of Life pretendono che questi poveracci senza busta paga mo li restituiscano i soldi. Gente, gli hanno dato 4-5 mila euro, non si sa su che basi, e non ha più pagato nulla. Gianni Amprino è il presidente dell'UNIREC, l'Unione delle Imprese a Tutela del Credito, e rappresenta l'88% del mercato italiano del recupero crediti, con 18.000 addetti. Ecco, dottor Amprino, nel 2014 c'è stato il record di bollette e rate non pagate, con 56,2 miliardi di euro e 40 milioni di pratiche. Ma chi paga meno tra i privati, le imprese pubbliche, l'amministrazione? Chi paga meno? Circa il 90% sono riferite a privati, a consumatori. Sono le famiglie, quindi. Le famiglie. Il 12% invece sono riferite a imprese. Imprese pubbliche. Che a noi vengono affidati crediti non verso i grandi gruppi industriali, infatti hanno, diciamo, un ticket medio attorno ai 1.500 euro. Ecco, rispetto a questi numeri, quante sono le famiglie coinvolte allora? Ma guardi... Grosso modo, insomma. Ma grosso modo sono, contanto che ci vengono affidati 3 milioni e mezzo di pratiche al mese circa, secondo me sono tra i 5 e 6 milioni di famiglie. 5-6 milioni di famiglie che non riescono a pagare le bollette, o non pagano le bollette. Sì, bollette o una rata di un prestito, di un mutuo. E che cos'è che si paga meno prima, per primo? I mutui, immagino che le bollette del gas e della luce siano quelle che si provano a pagare sempre? Ma questo sicuramente, direi che quando una famiglia va in difficoltà sono i prestiti personali, poi i mutui e poi sicuramente le bollette. In primi i prestiti personali, perché sono quelli con meno garanzie. Ecco, certo, dai vostri dati si legge la salute dell'economia reale e della vita dei cittadini, un quadro abbastanza duro, 5 milioni di famiglie. Sì. Direi assolutamente di sì, è una crisi che ormai, insomma, attanaglia il paese da qualche anno, è una crisi di fiducia, di liquidità e finanziaria. Senta, ma gli 80 euro in più in busta paga dal vostro osservatorio hanno dato ossigeno alle famiglie italiane rispetto al 2013 oppure no? Ma guardi, sicuramente molto poco. Se vediamo i nostri dati, di fatto stanno aumentando le masse, ma purtroppo calano anche le percentuali di recupero. Quindi non credo che abbiano inciso in un modo così rilevante, anche perché insomma la massa di credito sta crescendo quando una famiglia va in difficoltà. Il credito che voi dovete esigere, e il tasso di recupero è aumentato o no, presidente Amprino? No, il tasso di recupero purtroppo è calato. È calato. Le masse sono aumentate, ma le difficoltà sono sicuramente cresciute, quindi nonostante una elevata professionalità dei nostri 18-19 mila operatori, sono calati, seppur in un modo inferiore rispetto al trend dell'economia. noi siamo riusciti a rilevare, a portare a casa 10 miliardi di crediti. Questi 10 miliardi. Ma 10 su 56? 10 su 56. 10 su 56. Ma come si svolge il lavoro del recupero? Si va, guardi, casa per casa? No, principalmente diciamo che avviene telefonicamente, quindi circa il 70-75% di queste masse l'attività avviene telefonicamente, soprattutto quando il credito si manifesta. Dopodiché c'è una fase di contatto e di incontro col debitore quando la trattativa è più complessa. E qual è la difficoltà maggiore? La difficoltà nel maggiore è proprio riuscire a capire intanto dalla famiglia se una persona che non può pagare o se non vuole pagare, sì, e subito dopo cercare di trovare una soluzione sostenibile e capire in base alla sua situazione in che modo si riesce a trovare una soluzione. No, glielo chiedo perché per l'impresa. Glielo chiedo, dottor Presidente Amprino, perché lei dice che puntate a un riconoscimento della figura dell'agente domiciliare. Chi è l'agente domiciliare? Sì, noi puntiamo al riconoscimento, diciamo, delle figure di tutti i nostri operatori, sia degli operatori telefonici che gli agenti domiciliari. Gli agenti domiciliari sono quella parte di persone che vanno a casa, che incontrano direttamente, ma vanno a casa oppure presso l'impresa. Sì, d'accordo, insomma, che vanno. La trattativa è complessa, quindi certo, una trattativa complessa vuol dire cercare di trovare una soluzione. La soluzione la si incontra solo, ovviamente, non al telefono. Ma ci sono anche casi di scontri fra chi va a raccogliere. No, con queste numeriche non è che una come dire una, no, perché è normale che chi riscuote credito per conto terzi, certo, non è simpatico. Ma questo non è simpatico, però secondo me se passa il messaggio di questo recupero di 10 miliardi e che questo recupero serve a contenere l'aumento delle bollette piuttosto che consente alle imprese finanziarie di continuare l'erogazione a dei tassi più bassi, invece comincia a diventare certo, più simpatico, perché se questi 10 miliardi non certo, fossero abbassano incassati, la, se abbassano la, si sarebbero alzate le bollette, i bilanci certo, sarebbero stati peggiori. Senta dottor Amprino, ma come stabilite i limiti per restare nel rispetto delle persone, oltre che del consumatore, naturalmente? Ma guardi, dialogando con l'associazione dei consumatori, sì, abbiamo costituito l'anno scorso una fondazione, un forum per consumatori con 5 importanti associazioni di consumatori, che è un osservatorio permanente sulla nostra attività. Abbiamo già fissato 2 codici di comportamentali, sì, che abbiamo presentato a tutte le autorità, quindi questa è una garanzia sul fatto che siamo consapevoli di avere un ruolo delicato, ma certo, anche di voler assolutamente operare nel rispetto delle buone pratiche. Senta, voi avete come clienti anche oltre 400 comuni italiani. E il metodo di riscossione dalla pubblica amministrazione funziona, non funziona, funziona diverso? Come funziona? Ma guardi, il metodo della pubblica amministrazione è, direi che è anacronistico, costoso e non efficiente, non lo diciamo noi ma lo dice la Corte dei Conti, perché è sostanzialmente impostato ancora sulla riscossione, quindi diciamo sul modello Equitalia. Il modello che noi proponiamo è quello esistente nel privato, quindi una serie di interventi di gestione sollecito volti a gestire e recuperare il credito in un modo certo, efficace, ma anche di servizio al cittadino. Ecco, anche perché spesso chi non paga non è uno che non può, ma magari manco riceve il bollettino. Certo, certo. Senta, un'ultima cosa, Presidente Amprino. Giovedì voi presenterete il vostro rapporto. Mi dice qual è il dato più clamoroso che emergerà giovedì? Guardi, il dato più clamoroso sono queste masse, perché 56 miliardi sono veramente una cifra importante, anche 10 miliardi, lei pensi che 10 miliardi che noi recuperiamo incidono in un modo positivo sul PIL per più di 2 miliardi e sul contenimento dei costi delle bollette e dei mutui per oltre 10 miliardi che sono i crediti recuperati. Questo è un dato che ci inorgoglisce abbastanza. Senta, dottor Amprino, un'ultimissima cosa, lei è presidente ancora per poche ore, chi sarà il suo successore? Il nuovo presidente lo sapremo tra poche ore quando sarà ultimato lo scrutinio dei voti della nostra assemblea. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Sono anni che studio la vita e ancora non l'ho capita, e dire che mi sono applicato e dire che la materia mi piaceva di più la vita io l'ho corteggiata, qualche volta conquistata, baci, carezze, oh sì, l'ho proprio amata, usata. Si stava bene oggi in metropolitana, eh? Sì, perché a volte il rallentamento del convoglio non è che scatena l'impazienza, ma può accendere un sogno. Ed è successo tra Barberini e Termini oggi a Roma, quando il rallentamento è diventato una sosta lunga tanto da far vivere dentro il vagone una scena, anzi meglio, un istante di oasi da far restare a bocca aperta, perché c'era una comitiva di ragazzi russi, dovevano essere quelli dell'internazionale di tennis, che avevano i colori della giovinezza sposata all'estate e si sono prestati a una trasfigurazione dei rispettivi destini, ciascuno corteggiando la vita, anzi conquistata da ognuno in forza di risate usate, bevute, spalmate sul pane con le marmellate, come in continua così questa canzone di Giorgio Conte, dove c'è tempo per pensare, ma quello spettacolo era il tempo per sognare. La rotaia poi ha reclamato il passo, la metropolitana ha ripreso il suo cammino e la vita si è spalmata come il burro sul pane con la marmellata. C'è tempo per pensare. Mario, tu che, a che cosa ci fai pensare? All'Eurogelo forse, vediamo. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là. Un Vasco dannata. Sì. Era carina questa. Okay. Vabbè. Giovanni, cosa succede in città? Non lo so, vediamo cosa succede in Europa. Oggi Eurostat dà i dati sulla produzione industriale. Le previsioni parlano di un più 0,5%. Sarebbe, se fosse così, sarebbe la prima volta da molti anni che l'Europa supera gli Stati Uniti per quanto riguarda la crescita. Ricordo che nell'ultimo trimestre gli Stati Uniti hanno fatto un deludente più 0,2% contro il 2,2% dell'ultimo trimestre del 2014. Quindi c'è una crescita che è un po' stop and go da tutte le parti. I primi dati che sono venuti dalla Germania non sono entusiasmanti, ha fatto un più 0,3% rispetto allo 0,5% atteso. Ho visto adesso che esce la Francia, invece è superiore, fa un più 0,6% contro uno 0,4% atteso, e questo dimostra però la nostra, insomma, visione sul fatto che la crescita è come un canguro, salta da una parte all'altra, ma non c'è stabilità. L'Europa dovrebbe beneficiare comunque del forte calo del prezzo del petrolio e naturalmente del quantitative easing della BCE, ma come vedete nulla è più scontato. I cicli economici sono diventati veramente molto difficili da interpretare. E la verità, secondo me, così a occhio, è che troppi disoccupati sono in Europa e soprattutto in paesi come l'Italia, appunto, Grecia, Spagna. Con quel tasso di disoccupazione alimentare la domanda interna molto è veramente difficile. Salamino! Salamini di abbandoni! Non è Barbara Spinelli a lasciare la lista Tsipras, ma quella si chiama la lista Tsipras Altra Europa, ma è questo partito ad abbandonare il progetto originario, ed è il motivo per cui Barbara Spinelli lascia in asso i comunisti di Tsipras e però si tiene il seggio al Parlamento. Ed è tutta una festa nella lista Tsipras, anzi no, è tutto un pianto nella lista Tsipras, pianto greco, va da sé, perché l'europarlamentare Spinelli non è una pinni panni qualunque, intransigente, irreprensibile, a volte irascibile. Ella è la musa dell'Italia migliore. Eh beh. Quando si offrì, infatti Mario, lo ricorderai, quando si offrì alla compilazione delle liste, con lei c'erano tanti nomi importanti della cultura, dell'arte, della scienza. La povera Paola Bacchiddu, ricorderai, che venne criticata duramente. E invece, comunque, allora, a suo tempo, ognuno sottoscrisse un patto, vincere il seggio e dimettersi subito dopo, per consentire la costruzione di un progetto che nascesse dal basso. Dovreste vedere Minoli come fa. Fu un aiuto, perché volevano candidare anche te? Non sono in quel giro. Non sei quel giro, non sei tra gli irreprensibili, intransigenti e irascibili. Comunque, la questione è quella di garantire un gruzzolo elettorale alla lista e così avviare la lunga marcia del proletariato. La lista, questa fatta con gli ottimati a far d'avanguardia, ha avuto il suo risultato, ma poi insomma qualcosa non ha funzionato. E la Spinelli però ha dimostrato di essere una vera idealista, perché lei ha solo un'idea, che è l'idea della lista, e quella se la tiene, perché come un tempo Enrico Letta disse, lei questa frase: lo voglio dire a tutti, io non ci ho scritto Giocondor in testa, l'ho imparato fin da bambino e al momento opportuno lo dimostrerò. Ecco, e l'ha dimostrato la Spinelli, lei che è Gioconda, lei idealista. Mario, la bolla. Sì. Oh mamma mia, gli Abba, che bello. D'altronde in Grecia dobbiamo andare, quindi allora come è messa la Grecia? Facciamo un giochetto, vi dico come è messa la Grecia. Allora, ha un debito con Pietro, aveva chiesto un prestito a Pietro tempo fa per fare alcuni lavori in casa, paga il debito con Pietro, cosa? Come? Con i soldi di Pietro. Pietro paga, Paolo consuma. La ripetiamo? Ha un debito con Pietro, aveva chiesto un prestito a Pietro tempo fa per fare alcuni lavori in casa, paga il debito con i soldi di Pietro. Pietro paga, Paolo consuma. Questa è la Grecia, e così ha restituito i 750 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. E vai! Non male, pubblicità! Mix 24. Oh, sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male. È partita l'operazione La Mia Pensione, lo sapete da un po' di giorni, e 400.000 persone dotate di PIN hanno cercato di calcolare sul sito dell'INPS la loro pensione. Però 300.000 sono rimasti delusi, perché per ora possono vedere il loro futuro i lavoratori dipendenti privati con meno di 40 anni. A giugno potranno aggiungersi dipendenti privati con meno di 50 anni, poi tocca agli over 50 e il turno dei lavoratori pubblici dipendenti arriva nel 2016. Presidente Boeri, ma noi partite IVA? Mi dica, Presidente, noi non possiamo accedere al calcolatore delle pensioni perché c'è poco da calcolare? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Io speriamo che me la cavo. Mario, andiamo subito. La bolla? Sì. Che chitarra, i Muse, senti. Oh, questo è l'ultimo album, il brano è Psycho, per chi fosse interessato, tutto l'album si chiama Drones, una cosa meravigliosa. E Cameron che fa? Perché comunque siamo nell'isola d'Inghilterra. Ha stravinto e comincia a governare, non ha ancora presentato un nuovo governo, però oggi presenta una nuova legge antiterrorismo, un bel giro di vite, bello lo dico così, tra virgolette, era stata bloccata dai suoi alleati, i Lib Dem, nella legislatura che è finita, e adesso lui la ripresenta anche perché, come vorrei ricordare, governa da solo, governa da solo. Può governare da solo, diciamo, e governerà da solo, credo. A questo provvedimento sull'antiterrorismo ne seguirà un altro ancora più restrittivo sul monitoraggio delle telefonate, delle email, delle conversazioni, eccetera. Come allora, in Francia. Come in Francia. È una cosa che si sta diffondendo in tutta Europa. Dibattito pubblico su questo, zero. A mio avviso... capita e basta. Esatto. E stiamo entrando in un mondo di ipersorveglianza dove, lo dice uno che non è mai stato ipocrita su questo, gli equilibri tra la sicurezza e la libertà stanno diventando sempre più fragili. Aggiungo, per fare il mestiere di giornalista, con queste condizioni sempre più difficile. È sempre più difficile. Salamino. Un pontefice, ci vuole un pontefice. Ci vuole un pontefice in Sicilia, cioè un facitore di ponti, perché quella del ponte è la questione sottintesa, sovrestesa e mai sospesa del muoversi in Sicilia e fuori dalla Sicilia. Allora, il ponte di Messina non si farà mai, ma anche il ponte di Himera, non scherza, ricordate, è crollato un pilone dell'autostrada Palermo-Catania. Noi abbiamo fatto anche una puntata di Mix 24 a tal proposito, è già passato un mese e Graziano Del Rio, ministro alle infrastrutture, ha corso nel luogo dello scempio davanti a quel pilone inginocchiato di fronte al disastro, ha dichiarato: 1. Il ponte sarà ricostruito in 2 anni. Poi ha detto che nel giro di 3 mesi sarà costruita una bretella provvisoria. Stiamo a vedere. E quindi prima del ponte c'è sta bretella. Gian Antonio Stella oggi sul Corriere offre una comparazione interessante, cioè che il governo nazionale ritiene che il ponte possa essere ricostruito con 30 milioni di euro. Il governo di Crocetta, invece, che è pur sempre emanazione del signor Renzi, sulla base delle relazioni tecniche del governo siciliano, invece dice che ce ne vogliono almeno 200 di milioni. Nel giro di 3 mesi, però, Graziano Del Rio farà sta bretella. Allora, un mese è già passato e non si è visto un solo geometra. Io poi vorrei fare un promemoria con un per esempio. Allora, il per esempio che vorrei proporre è questo: che ci sono 586 chilometri tra Roma e Milano. Un treno ci impiega 3 ore e 31 minuti. Ci sono 281 chilometri tra la deliziosa cittadina di Vittoria e la deliziosa cittadina di Trapani, in quel di Sicilia. Un treno impiega 16 ore e 50 minuti. Beh, non male. Ora, quanto saranno lunghi questi 3 mesi di Graziano Del Rio? E cultura Sicilia, con l'autonomia. Veloce quel treno, non male questo. Sì. Dal pendolino al lumachino. Dal pendolino al lumachino, carina. Senti, Marina Milone, oggi dopo il giornale radio, terza puntata della storia della CIA? Esatto, terza puntata, ci occupiamo della prima guerra del Golfo e degli errori compiuti dall'intelligence fino all'11 settembre, la cattura di Bin Laden, molto discussa proprio in questi giorni. Con noi il giornalista Fausto Biloslavo. Bene, dopo il GR, la terza puntata della storia della CIA. Pubblicità.